sotto ad un cino d'amor. Venne, venne, turbando riposo, Narcisetto ad un cino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, il vermiglio donnesco color, il vermiglio donnesco color. Non ti avrai che pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle, belle, turbando riposo, Narcisetto ad un cino d'amor. Belle, belle, turbando riposo, Narcisetto ad un cino d'amor. Gran guerrieri può far pacco, grando stacchi, stretto sacco, schioppi in spalla, sciabra in fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto lor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una mancia del fango, per montagne e per valloni, con le nevi e solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quel pennacchino, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle, belle, turbando riposo, Narcisetto ad un cino d'amor. Belle, belle, turbando riposo, Narcisetto ad un cino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar.